Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti e bentornati su Liberi Dentro, oggi è mercoledì 13 ottobre. Io sono Caterina Bombarda e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Entrambe alla conduzione di questo programma Liberi Dentro Eduradio che fa da ponte tra carcere e città. E sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Oggi parliamo di lettura all'interno del carcere. Leggo un articolo molto interessante di Valeria Bottone su doppiozero.com. Questo perché la giornalista ha sempre pensato, come forse tante persone all'esterno, insomma, pensano che in carcere si possa leggere tranquillamente, c'è molto tempo a disposizione, quindi la possibilità di leggere sia più elevata rispetto ad altri contesti. E invece non è proprio così. Di tempo effettivamente ce n'è tanto, tantissimo, addirittura troppo, ma in carcere sono altre le cose che mancano e che non permettono di leggere. Senti, e quali sono quelle cose che mancano e non permettono di leggere? Allora, innanzitutto, molti dei nostri amici che ci ascoltano anche dalla dozza ce lo confermeranno, manca il silenzio. Silenzio sia dentro le celle, perché i detenuti vivono per lo più insieme, c'è chi vuole ascoltare la televisione, magari anche tutto il giorno, e questo non favorisce certo un clima di lettura, ma anche fuori dalle celle, nei bracci delle sezioni, dove sbattono le porte, i blindi, passano i carrellini con le cose sporche, con il cibo, e quindi risuonano le voci, quindi non è certo facile trovare quiete. Insomma, un silenzio prolungato e necessario a una concentrazione non è certo la cosa che si può trovare all'interno di un carcere. E poi un altro ostacolo è la difficoltà a reperire i libri, o alcuni libri in particolare, soprattutto per i detenuti che non possono contare su chi glieli fornisca dall'esterno. E con l'inizio della pandemia questa possibilità è stata chiaramente ancora più limitata. Scusami Caterina, ma le biblioteche? Solitamente negli istituti penitenziari, come certo suggerisci, c'è una biblioteca di istituto collegata a un sistema bibliotecario della città e anche su ogni piano della sezione una piccola biblioteca o quasi, insomma. Nel carcere di Rebibbia, per esempio, prima dell'avvento del Covid-19, tutte le biblioteche erano accessibili. E nelle fasi però iniziali e più problematiche della pandemia, la biblioteca ha chiuso ed è rimasta inaccessibile, pensate voi, più di un anno, come è accaduto in gran parte delle biblioteche comunali e non. Poi c'è stato anche il caso di una biblioteca danneggiata dalle rivolte del marzo 2020, concomitanti con l'arrivo del Covid-19, che ha causato anche la perdita di numerosi libri che sono stati danneggiati e quindi è stato necessario recuperare. E ancora oggi il bibliotecario incaricato di quest'ultima, che pensate voi è un detenuto cinquantenne, ha raccontato questo drammatico assalto alla biblioteca del carcere e del suo impegno a portare i libri proprio di persona alle persone che glieli chiedono. Caterina, ma ci sono dei libri ammessi e dei libri non ammessi o possiamo insomma richiedere di tutto nelle biblioteche? Tocchi un argomento un po' scottante. Allora, in Italia non ci sono restrizioni sui libri ammessi, come invece accade nei carceri statunitensi, dove migliaia di libri, pensate, ancora oggi sono vietati, e non solo quelli a contenuto sessuale esplicito o quelli che potrebbero, diciamo, sobillare gli animi, ma anche insospettabili classici. Pensate per esempio a Shakespeare, vietato nelle carceri statunitensi, o Flaubert. Per ovvi motivi, tra i lettori del carcere invece bisogna dire che i più penalizzati sono sempre i detenuti stranieri. Questo perché manca la letteratura nella lingua, spesso i detenuti stranieri arrivano che sanno pochissimo italiano, devono andare a scuola per impararlo, e questo chiaramente crea anche tutte le conseguenti problematiche sulla comprensione delle norme all'interno del carcere e tutta la burocrazia che ne deriva. Immagino che possa succedere di ricevere anche richieste di libri particolari che magari i mediatori e gli educatori cercano di accontentare o non è possibile? Allora, per esempio, l'articolo di cui vi sto parlando parla della ricerca nel carcere di Rebibbia del libro Il maestro e Margherita, in lingua, e quindi in russo, che però questa richiesta è caduta nel vuoto, il libro non è stato trovato. A me invece è capitato di avere richieste da parte di studenti universitari e libri per esempio di sociologia, mi riferisco a Erwin Goffman e al suo libro Stigma, l'identità negata. Oppure di recente mi è anche capitato di incontrare una donna nella sezione femminile, pensate, lei viene dal Pakistan, e mi ha chiesto il libro di teoria della scuola guida, perché una volta uscita, fra un po' lei è un fine pena, vorrebbe imparare a guidare e vorrebbe farlo con sua figlia, che ormai è diventata grande, è una donna, e quindi vorrebbero cominciare a guidare insieme. Quindi, per concludere, è banale attribuire alla lettura una funzione di evasione, eppure all'interno delle carceri può essere così, e anzi ha un ruolo quasi centrale la lettura. E la lettura in età adulta, per lo più, è una questione di abitudine che abbiamo appreso in casa. Genitori che leggono, fratelli che leggono, nonni che leggono, generano appunto figli che leggono. E per chi riesce a mantenere o a riprendere questa abitudine in carcere, la reclusione potrebbe apparire addirittura persino meno spiacevole. È raro invece improvvisarsi nuovi lettori, soprattutto in contesti dove il contorno non aiuta e dove non è semplicissimo procurarsi libri e poi leggerli in tranquillità, ma certo sarebbe diverso se si venisse opportunamente guidati e gradualmente iniziati a ciò che potrebbe rivelarsi una scoperta, per l'appunto la lettura. E di associazioni che insegnano a leggere in carcere e che leggono libri insieme ce ne sono veramente tante, e complimenti per il lavoro che fanno. Ma ora, sempre a proposito di lettura, concludo con Bersani, Le storie che non conosci. Pensate, una canzone dedicata ai libri italiani accessibili e all'Associazione Italiana Editori. Ascoltiamola. Ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. Hai dedica con data a sé un regalo, col prezzo ben nascosto dietro un adesivo. È l'aria di chi non ha un letto fisso, ma si appoggia in giro. Sarai mai stato in metropolitana, su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno, arrotolato in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto. Briciole addosso, cerchi olimpici di vino rosso, è una formica pietrificata del secolo scorso. Ci sono dei graffiti a coprire ogni fianco, spirali ipnotiche a matita in alto, e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo. Sarai mai stato a rischio di bruciarti o su una mensola ad impolverarti, e riscoperto da qualcuno che non ti aspettavi. Lo hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori ancora intero. Una storia che non conosci. E rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Con te, Antonella, apriamo una finestra sull'Africa e parliamo di Legge Basaglia, vero? Sì, è una finestra particolare perché si apre su varie zone dell'Africa, il Benin, il Togo e la Costa d'Avorio, che sono le aree in cui Grégoire Haugmonon ha fondato dei centri di accoglienza. Ti preciso subito che nel 98 Haugmonon ha vinto il premio Basaglia, Franco Basaglia, che è un premio internazionale, proprio per la sua attività. E i suoi centri ospitano 3.000 pazienti psichiatrici, spesso in condizioni disperate. C'è un racconto appunto di Grégoire che sembra avere un po' un potere magico in quelle zone, per quando si avvicina a un paziente psichiatrico che si dimena magari sdraiato in una buca polverosa, delle strade del Togo e le sue maniche lo calmano e lo tranquillizzano e poi lo portano in uno dei centri di San Camille. C'è da dire che nel periodo del Covid le cose ovviamente sono peggiorate, però lui è riuscito a fare una cosa che non tutti sono riusciti ad ottenere, che è quella di far vaccinare quasi tutti ricoverati con il Johnson & Johnson e quindi il monodose, il vaccino monodose. E quando lui arriva appunto in uno dei suoi centri viene toccato, abbracciato, baciato un po' come fosse un padre e in effetti lui dice di se stesso di essere un missionario e fa la vita del missionario, si sveglia alle 6, va a messa, fa colazione e poi comincia, beve anche, anzi questa è una cosa che mi ha incuriosito, beve questa tisana fatta di foglie di chinino che è un'erba amarissima che usano tutti per combattere la malaria e anche altri virus, probabilmente pensano anche il Covid-19, però si sono vaccinati e le sue giornate sono un po' caratterizzate da questo continuo movimento tra i suoi centri e anche raccogliere le persone per strada, perché in realtà la sua magia consiste nel credere che un malato mentale è una persona e si può guarire anche nei posti più remoti dell'Africa. Ecco, esatto. E allora, rimanendo nel contesto dei posti più remoti dell'Africa, come si fa a operare con malati psichiatrici in un contesto così difficile? Caterina, ci vuole una grande convinzione. La sua convinzione è che non vuole soltanto aiutare le persone, ma anche recuperarle, soprattutto quelle ridotte in condizioni disperate. Ed è per questo che viene chiamato il Basaglia Nero. Ci sono tanti casi di gente buttata per strada, addirittura legata agli alberi, e lui gli ha ridato dignità. Pian piano ha recuperato quella parte sana che esiste, perché lui sostiene proprio questo, che non tutto si rompe, si deve solo ripartire, allora si inizia facendo fare al paziente il lavoro che faceva prima di stare male, oppure dandogli dei compiti, per esempio chi guarisce aiuta gli altri e porta avanti un po' quello che è l'inizio del percorso, oppure si mette in una catena di montaggio dove lui ha la sua parte. Infatti ci sono pazienti che cucinano, che si occupano della pulizia dei centri, c'è chi prepara il pane nel forno tutte le mattine. Ovviamente, inutile dirlo, non tutti riescono ad arrivare a completa guarigione, però nessuno resta fuori. C'è sempre qualcuno che si occupa di loro, che li alimenta e che permette loro di non essere lasciati per strada. Ecco, e come è percepita la malattia psichiatrica in questi paesi? Tocchi proprio un punto dolente, perché il Benin è la patria di una strana religione che è il voodoo, fatta di riti, sacrifici animali e che non ammette interferenze a chi non è considerato normale, perché lo strano viene allontanato dal villaggio. E quindi immagina che chi ha problemi psichici, ancora peggio, viene legato con delle catene per non poter nuocere. Ti dico solo una cosa che è veramente raccapricciante. Nel 2014 è stato trovato nel nord del Benin un campo di preghiera, cosiddetto, dove erano legate 205 persone ridotte a scheletri umani che si lamentavano e urlavano. E in alcune parti dell'Africa il malato mentale è percepito proprio come posseduto dal demonio, stregato, e quindi lasciato abbandonato a se stesso. Ma Antonella, è ancora così? Guarda, ora questi campi di preghiera per fortuna non ci sono più e molto raramente troviamo persone legate per strada, se non in qualche remoto villaggio. Gregoire è sempre molto fiducioso, ha una fede profonda e porta tutti nei propri centri. C'è da dire che non dappertutto la situazione è la stessa. In Togo, infatti, la situazione è ancora, insomma, un po' come prima, diciamo così, non è cambiato molto. Ma lui è uno psichiatra, raccontaci di lui un attimo. Questa è la cosa interessante, no, non è uno psichiatra, è un uomo che ha avuto alti e bassi, ha perfino tentato il suicidio, ha fatto delle imprese economiche che non sono andate in porto e dopo aver ritrovato la fede nell'82 partecipa ad un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale ascolta una frase pronunciata da un sacerdote che gli cambia la vita e la frase è questa: ogni cristiano costruisce la chiesa portando la sua pietra, e lui ha fatto così, ha portato la sua. Per rimanere in zona, diciamo così, ascoltiamo una canzone gongolese dall'album Canzoni dal Mondo. Ascoltiamola insieme. Yeah. era un gato lonario, no le acubate la, oye, oye, cuando yo tu bota. Bote malango me miu, nini la cosa la soquina zanya, mokili se de zato. Kali mozimba na kobi mana na liyo, na la kaba kala, iranga tolo na, na ya kuba tela mama, mwana yuto bota ngana ya, awayo kayo, awayo kayo. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro Eduradio. Proseguiamo da ieri l'intervista con Silvia Giralucci, autrice del podcast Pianosa, l'isola del diavolo. Proprio ieri ci avevi accennato al senso della pena, un ragionamento, questo podcast apre una riflessione importante su questo argomento. E questo podcast è costruito come un vero e proprio racconto di viaggio tra passato e presente di Pianosa, storie che intrecciano la storia d'Italia e che portano una riflessione profonda proprio sul senso della pena. E una cosa che mi colpisce è che tu a un certo punto ti scopri, in particolare nel secondo podcast, e inizi a parlare un po' di te e dei motivi che ti hanno portato sull'isola e anche del fatto che già da tempo avevi iniziato ad avvicinarti al mondo delle carceri come volontaria. Puoi raccontarci come hai iniziato questa ricerca e a che cosa ti ha portato oggi? Come volontaria, allora, la cosa è nata in un convegno di Ristretti Orizzonti, che è la rivista che viene edita dal carcere di Padova, che cura anche una newsletter sui temi della giustizia, che è tra le più lette in Italia, anche al Ministero, anche dagli avvocati, diciamo è un punto di riferimento per la comunicazione sui temi della giustizia del carcere, e avevo organizzato questo convegno che partiva da delle parole di una figlia di una vittima del terrorismo, che è Antonia Custra, riportate nel libro di Mario Calabresi, Spingendo la notte più in là, e a cui Antonia diceva: io sto imparando a non odiare. E quel convegno fu molto importante, vennero invitate diverse vittime del terrorismo a raccontare la loro storia, e i detenuti erano quasi 600 in quel, tra detenuti e partecipanti al convegno, come dire, ascoltarono in un silenzio quasi religioso. Fu importante per me non solo raccontare la mia storia, ma trovare delle orecchie disponibili ad ascoltare una storia così pesante, che non è una cosa banale, perché una delle conseguenze dell'essere vittima è che hai una storia così pesante che non hai nemmeno la possibilità di condividerla. A me capitava, quando ero ragazzina o anche più grande, che mi chiedessero: che lavoro fa il tuo papà? E allora o inventavo una storia, oppure dovevo dire: io non ce l'ho il papà. Cos'è successo che non ce l'hai il papà? Allora io dicevo: è morto. E allora dicevano: ha avuto un incidente stradale? E dicevano: è stato ucciso. Allora a quel punto già l'interlocutore rimane sorpreso, e allora tu sei costretto ad aggiungere che è stato ucciso dalle Brigate Rosse. E a quel punto l'interlocutore è devastato e ti dice: no, scusami, non sapevo, non volevo. E tu ti devi quasi scusare di avere questo peso. E è molto faticoso. quello che unisce le vittime e gli autori di reato è in qualche modo la possibilità di sopportare delle storie più faticose. E quello che ho appreso poi, frequentando il carcere, è che non è tanto la pena, cioè non c'è nessuna terribile pena, lo dico anche nel podcast, che possa risarcire una vittima. Neppure la pena di morte risarcirà quello che una vittima ha perso. Quello che può aiutare una vittima a vivere portandosi sempre addosso questo peso è, per esempio, il fatto di poterlo condividere, quindi di essere ascoltata dalle istituzioni. E quello che io ho trovato in carcere, incredibilmente, è stato l'ascolto, la possibilità di condividere, la possibilità di dare anche un senso positivo alla mia storia tragica, nel senso che tra i detenuti che ho incontrato ce n'erano diversi. Io ho detto a loro una cosa forte, che mi aspetto che una volta uscito un assassino continui a camminare a testa bassa, e diversi di loro se la sono presa, perché hanno detto: beh, io una volta che avrò scontato la mia pena camminerò a testa alta, perché io il mio l'ho fatto. Io ho cercato di spiegargli che tu il tuo l'hai fatto rispetto alla giustizia, rispetto a una vittima il tuo non l'avrai mai fatto, perché le conseguenze della tua azione non avranno mai un termine. Quindi nei miei confronti un debito ce l'avrai sempre. E riuscire a far capire delle persone questa cosa è stato comunque importante. È stato importante e ha dato in qualche modo un senso positivo anche alla mia storia. Silvia, siccome hai incontrato persone che hanno vissuto la detenzione più dura, il carcere duro, e secondo te quali sono gli effetti che tu hai visto su queste persone che il carcere produce? Non solo sui detenuti, ma anche sugli agenti. E allora, più che per il podcast, li ho incontrati per tanto tempo all'interno del carcere di Padova. E devo dire, quello che mi colpisce è che la detenzione chiusa non porta a nessun cambiamento nelle persone. Le persone entrano in carcere, trovano delle condizioni spesso disumane, e a quel punto si sentono vittime e non riflettono minimamente sulle loro responsabilità. Questo è un carcere che non produce cambiamento e che restituisce alla società delle persone forse ancora peggiori di quando sono entrate, perché chiunque di noi, anche una persona completamente regolare, se viene tirata via dalla società e chiusa in un posto per 4, 5, 10, 15 anni, quando esce, anche se prima era normale, non è più capace di vivere, ha perso troppe cose. Immaginiamoci una persona che già prima aveva commesso un reato e quindi qualche problema ce l'aveva. Una detenzione chiusa non ha senso. Ha senso cercare di risocializzare, e di risocializzare facendo fare delle esperienze. Quindi la presenza del volontariato all'interno delle carceri è una parte fondamentale, non accessoria, del trattamento, assolutamente fondamentale, va valorizzata, e mi sembra che in questo senso la ministra Cartabia sia d'accordo. E certo, purtroppo il tema delle carceri in Italia, la discussione, è una discussione che paga politicamente solamente quando si dice buttiamo via la chiave. Tutto il resto viene interpretato come buonismo, come lassismo, e non si comprende invece come una carcerazione che tenda alla rieducazione è appunto nell'interesse della società. Per quanto riguarda gli agenti, io ne ho conosciuti di due tipi. Allora, quelli convinti di fare un lavoro mal pagato, che sicuramente è, eccetera, eccetera, e che si schermano rispetto a questo con un disinteresse rispetto alla condizione dei detenuti, e quelli molto più complessi che si rendono conto che che questa condizione è in alcuni casi disumana e sono costretti a fare i tutori di una situazione che neppure loro approvano, e penso che sia molto duro. E poi quanto sono disumane le condizioni per i detenuti col un freddo cane, per esempio, d'inverno, un caldo insopportabile d'estate, sono le stesse condizioni in cui vivono gli agenti che nemmeno hanno commesso un reato, cioè sono cose che non dovrebbero essere possibili in un paese civile. Io, Silvia, ti ringrazio anche per questa riflessione di oggi sul senso della pena. Invito i nostri teleradio ascoltatori a scriverci redazioneliberidentro@gmail.com. Se hanno delle domande le gireremo a te direttamente. Ci ridiamo appuntamento a domani, e fra pochissimo la musica e poi la chiusura della puntata. A presto. cosa che posso fare. Se non vuoi brasse, fa o mai na. Se in fondo è brasse, non vuoi mai. Ma sa e mi compagno di occupanio con una cascetta larga di io giusto pascondi me covestio dere a un fio. Peguei do mato timidamente, mas mesmo a gente. E aqui no Veda serra juntos, é para estrania contra o trum. Quem manda a dica é vive ele é cão, mas bom é coisa. Me sona pite, mas respeitamos. Um anandio a conta é quando a vítima lestra-se dedo do mé. E ora ci salutiamo e dopo aver ascoltato Silvia Giralucci anche oggi ci ridiamo appuntamento per la rubrica tra pochissimo con l'equipe sanitaria del carcere, l'intervista al dottor Francesco Casimirri che è referente clinico dei medici dell'equipe sanitaria del carcere della Dozza. Lui racconterà dell'attività medica e specialistica all'interno dell'istituto penitenziario. E vi ricordo sempre di iscriverci a redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40 136 Bologna con l'intestazione a Liberi Dentro Eduradio. E sia io che Antonella che Enea Flacco vi salutiamo e vi ridiamo appuntamento a domani. Grazie a tutti. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.